Forse posso aiutarvi. Ecco cosa avrei fatto. Grace, procedi. Pioggia radioattiva. Tossicodipendenza. Terrorismo internazionale. Assassini a piede libero. Questa è la cagione. Morto che va della legione. Questa è la cagione. Morto che va della legione. Ora voglio dirti il mio segreto. Nelle bare, nelle tombe. Vanno in giro come persone normali. Non si vedono tra loro. Vedono solo quello che vogliono vedere. Non sanno di essere morti. Li vedi spesso? Continuamente. Senka, José Cuervo. Sono dappertutto. Morto che parla, questo è il nome. Non male?